Io volevo far parlare Roberto Brambilla, che in realtà io non conosco e so poco di quello di cui ci racconterai. So solo che l'impronta ecologica, anche che tu sei di Lilliput, impronta ecologica. Non so quanti di voi sanno cos'è l'impronta ecologica, Lilliput sicuramente di più. Magari ci racconta qualcosa Roberto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. In sostanza direi che può essere l'impronta ecologica può essere uno strumento molto interessante per chi si occupa di territorio e di sociale. Giusto per darvi un'idea, non vi sto parlando di una mia invenzione di qualche anno fa, è un parametro che si sta affermando nel mondo. L'Unione Europea, ad esempio, ha presentato nel 2005 con il Presidente europeo l'impronta ecologica di tutti gli Stati europei. Perché vi dico che è uno strumento interessante? Perché per chi fa lavori come i nostri, importantissimo è comunicare il problema equilibrio uomo-ambiente, perché spesso le grandi opere di cui ci occupiamo noi devastano l'ambiente. Se di fatto molte amministrazioni, molte popolazioni stanno segando il ramo su cui sono sedute. Per cui è importante riuscire a spiegare alle persone l'impatto che noi abbiamo facendo queste cose. Cerco di farvi un esempio che dovrebbe farvi capire alla base che cos'è l'impronta ecologica. Immaginate che intorno a Milano, questo funziona molto bene quando sono in luoghi tipo la Toscana, quando sono in zone urbanizzate come la Lombardia funziona meno bene questo esempio, adesso capite perché. Immaginate che intorno a Milano ci siano boschi, laghi, fiumi, verde, campi e tante belle cose. Prendete una cupola trasparente, la mettete, che lasci passare energia solare, ma non materia, quindi i gas restano dentro, la materia non attraversa sta cupola ideale. Questa cupola è elastica. Prendete la cupola e plop, la calate sull'abitato di Milano, perché abbiamo detto che intorno a Milano c'è verde, campi, boschi, eccetera, natura. Ovviamente, siccome la vita continua in Milano, dopo poche ore la concentrazione di CO2 dovuta a scarichi, automezzi, riscaldamento, soprattutto in questo periodo, diventerebbe terribile. Vedreste dalla vostra posizione esterna alla cupola, gli abitanti di Milano cominciano a diventare quantomeno rossi, tossire, dare un po' segni di malessere. Per cui cosa fate? Non c'è bisogno della cupola. In effetti non c'è bisogno della cupola. Allora prendete questa cupola, ideale abbiamo detto, e l'allargate, andate a mettere sotto la cupola un po' di boschi, un po' di prati, un po' di cose, in maniera tale che, perché nota bene, venivano a mancare anche gli alimenti con la cupola di prima aderente all'abitato, perché a un certo punto non passa tutta la roba che arriva dall'esterno verso Milano, quindi dopo un po' finiscono le scorte nei supermercati, la gente crepa. Allora voi allargate la cupola in maniera tale da includere fattorie, campi di grano, mucche, pesci, alberi, gli alberi che pigliano, che riescono a metabolizzare la CO2 emessa dal riscaldamento. Quindi fate, adesso la faccio breve, se no tiriamo notte, fate sto giochino fino a quando trovate la posizione di equilibrio. Cos'è la posizione di equilibrio? La posizione di equilibrio è quella allargamento della cupola che vi porta ad avere gli abitanti in equilibrio con la natura circostante. Abbiamo già trovato l'impronta ecologica. Perché? Perché l'impronta ecologica degli abitanti di Milano, per definizione, è proprio la superficie che sta sotto la cupola e che serve per tenere in vita a tempo indeterminato, questo è fondamentale, gli abitanti di Milano. Ovviamente qualcuno mi potrebbe dire sì, però a Milano si mangiano anche gli ananas, fammi te crescere un ananas a Milano. Niente, il modello lo si migliora un attimo, si va a vedere quanti ananas vengono consumati a Milano, quanta superficie in Kenya serve per fare gli ananas, la sommata della superficie che avete trovato sotto la cupola, quella è l'impronta perfezionata dei milanesi. L'impronta viene espressa in ettari pro capite. Direi che questo esempio lo capisce chiunque. Il fatto che una persona che ha mangiato del pane oggi si è di fatto appropriata di una superficie di pianeta, perché il grano di quel panino è nato da qualche parte, non è che è stata una fantasia. Quindi voi potete in pratica associare ad ogni consumo una superficie di pianeta bioproduttiva. Per cui la cosa interessante poi alla fine è andare a fare questo lavoro per un'intera nazione. Se fate questo lavoro per un'intera nazione, scoprite ad esempio che per una nazione come l'Italia voi avete bisogno, per essere in equilibrio, di due Italie vuote a fianco della nostra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia, per essere in equilibrio, deve andarsi ad appropriare delle risorse in giro nel mondo per poter soddisfare i propri bisogni. Tenete presente che questo giochino del soddisfare i propri bisogni con le risorse del pianeta, di altre nazioni, funziona quando voi andate ad analizzare la singola nazione. Ma se voi andate a fare sto giochino per tutto il pianeta, scoprite che l'impronta ecologica media dell'abitante del pianeta è 2,2 ettari pro capite. Il nostro pianeta a disposizione di ciascuno mette 1,8 ettari di natura bioproduttiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'umanità si sta comportando come una famiglia che vive di interessi e comincia a spendere più degli interessi che riceve ogni anno. L'anno dopo c'è meno capitale, meno interessi, e quindi è una situazione che si avvita verso il peggio e non verso il meglio. Quindi, in sostanza, se adesso proprio abbiamo poco tempo, avete capito sto concetto di impronta ecologica e della facilità con la quale vi mette in relazione stili di vita di una popolazione con quantità di natura che serve per sostenerli, capite che vengono fuori delle interessantissime deduzioni sul discorso, ad esempio, dell'equità. Perché se noi i milanesi hanno un'impronta ecologica che è ben al di sopra dei 2,2 ettari pro capite, noi saremmo tranquillamente sul 7-8 ettari pro capite. Gli Stati Uniti, valore medio, è 9,6 ettari pro capite. Per cui scoprite poi che paesi come il Brasile sono invece in grado di accogliere l'impronta di altri. Quindi anche qui viene fuori il discorso del debito ecologico, eccetera, eccetera. Quindi, l'osservazione degli stati del mondo attraverso il concetto di impronta porta a scoprire delle cose sull'equità, il rapporto uomo-natura molto interessanti, e poi porta a fare delle scoperte anche interessanti nella provincia di Milano, perché l'assessorato di mezzi, che era stato tra l'altro a un incontro con il ricercatore californiano Matis Wackernagel, l'invitato da rete Lilliput per un tour in Italia, era stato a sentire sta cosa, e quindi poi ha finanziato uno studio con Ambiente Italia per vedere l'impronta della provincia di Milano. E dalla provincia di Milano cosa viene fuori? Viene fuori un dato molto interessante, che siccome è una provincia molto urbanizzata, praticamente la bioproduttività pro capite è più bassa che per il resto degli italiani, e quindi noi abbiamo un deficit ecologico superiore del 30% rispetto a quello degli altri italiani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che continuare a costruire grandi opere e mettere 700.000 persone a Milano è semplicemente demenza. Punto. Non ho altre parole per definire questa cosa. Quindi, in sostanza, la cosa che vorrei dirvi è che quantomeno si potrebbe usare come minimo, come strumento, come ulteriore argomento, questo. Cara provincia, hai fatto lo studio, viene fuori sto dato, e sei qui a propormi l'Expo che mi porta via altro spazio agricolo e che mi disequilibra ulteriormente le cose. Quindi questo è già un punto interessante. E poi, sempre il discorso di impronta ecologica, può servire, e qui va un po' in un discorso, che potrebbe farvi saltare sulle sedie, in questo senso, che siccome ogni persona si porta dietro un impatto ambientale dei consumi, delle emissioni, dei rifiuti, e questi vanno metabolizzati dalla natura, dal pianeta, se voi avete delle concentrazioni eccessive in un'area ristretta, l'Italia è sovrappopolata da questo punto di vista, andate a fare il ragionamento: sì, ma quanta gente posso far entrare in Italia? Quando io sento la gente che dice l'Italia sta invecchiando, dobbiamo assolutamente fare bambini, io dico, oh, momento un attimo, perché non so se è così sensato un ragionamento di questo genere. Per me in questo momento sensato è dire l'Italia sta invecchiando, attrezziamoci nella maniera migliore per avere, io sono di questi, delle serene vecchiaie, ma magari pensiamo di alleggerire il numero di persone che vivono in Italia, perché l'Italia non ce l'ha lo spazio a sufficienza per permetterci l'equilibrio uomo-ambiente. Di fatto vuol dire che noi portiamo via risorse ad altri. Quindi, se volete, dove sto arrivando, il discorso che può far saltare sulle sedie è questo. Noi a volte facciamo forse un ragionamento sui migranti, sulla possibilità di prendere gente presso di noi, eccetera, eccetera, che esula da questa, come dire, lettura. E quindi da un discorso impronta ecologica potrebbe anche venirvi fuori il grosso dubbio del dire, caspita, ma è meglio cercare di far star bene tutti quelli che stanno, cioè adesso ragazzi il tempo è poco, per cui non pensate che vi stia proponendo idee strane, però quello che voglio dire è a partire dal concetto che l'Italia è assolutamente sovrappopolata e l'Europa mediamente è assolutamente sovrappopolata, bisogna pensare a come risolvere il problema equilibrio uomo-ambiente. Quindi, secondo me, ad esempio, una cosa che viene assolutamente immediata è il dire che forse, anzi, io ne sono abbastanza certo, è molto meglio cercare di fare in modo che paesi come l'Africa, che hanno dei meravigliosi, delle potenzialità naturali enormi, riescano ad organizzarsi in maniera tale da non far partire via la gente, perché in fin dei conti andare via dalla propria terra di naturale è sempre un trauma della Madonna. Quindi questo è un punto di riflessione che secondo me è abbastanza importante. Ultima cosa, Giorgio Ferraresi del Politecnico di Milano mi ha pregato di comunicare che forse c'è qualche fotocopia, c'è qualcuno che risulta che ci dovrebbero essere delle fotocopie. Ecco, io ne ho portate per scrupolo 10. Lui si occupa di urbanistica, aveva fatto quello studio molto bello sull'ambito del Vimercatese, sulle alternative alla pedemontana, aveva evidenziato che in Brianza nostra, ad esempio, c'è tutto un discorso di tessuti reticolari di piccole città, non c'è un centro prevalente, la pedemontana arriverà, taglierà tutti in due e diventerà forse una seconda Milano-Venezia con tutti i capannoni a destra e a sinistra. Giusto per darvi un elemento, non so se lo sapete, abbiamo cercato di fermare in regione una legge che aiuta i finanziatori di opere come la pedemontana nella realizzazione di interventi che abbiano, è una frase molto fumosa, che abbiano a che fare con l'opera stessa, quindi, che ne so, parcheggi, centri commerciali e robe tipo gli autogrill e compagnia bella attorno a queste opere. Questo perché i poveretti fanno dei finanziamenti e siccome forse coi pedaggi non ce la fanno, allora gli si dà subito uno strumento per rientrare velocemente, ma questo è altro territorio che parte. Vi ricordo un'altra cosa, qui sicuramente avete parlato di filiere corte. Noi in Brianza abbiamo realizzato una filiera corta, si chiama Spighe Madia, sta funzionando da 2 anni, stiamo facendo pane biologico che è uno spettacolo, è proprio buono, forse qualcuno tra voi l'ha pure assaggiato perché abbiamo fatto una riunione con questo pane per cibo un po' di tempo fa e lo stiamo pagando 3 euro e qualche cosa, quindi il prezzo del pane comune. Quindi chiudo con questo messaggio, secondo me noi dobbiamo sforzarci di affascinare la gente con piccole cose concrete che abbiano un senso e che siano una reale soluzione di problemi di tutti i giorni della gente comune. Quindi l'invito è: cerchiamo assolutamente di liberare i nostri linguaggi da parole del politichese e cerchiamo di moltiplicare queste cose che già state facendo, perché io ovviamente non ho meriti per questa bella roba qua, per evidenziare l'importanza ad esempio dell'agricoltura come fornitrice di mezzi di sussistenza a basso costo e di buona qualità, perché questo secondo me è un punto che potrebbe convincere tanta gente. Grazie.